Renzi e Barroso si incontrano a Roma, i ministri degli esteri e dell'economia intanto negano che ci siano tensioni con la Germania. La settimana prossima Juncker esporrà il suo programma ai socialisti europei. I carabinieri trovano a Frosinone il tesoro di Fanella, l'uomo assassinato ieri a Roma in via della Camilluccia. Ci sono dollari e diamanti. Secondo gli inquirenti non si è trattato di un agguato ma di un tentativo di sequestro. Un nuovo problema al motore e l'esercito americano ferma tutti i caccia F-35. Si tratterebbe di una perdita d'olio che ha causato un incendio in uno dei velivoli. Dovrebbe arrivare in giornata l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Si attendono per questo pomeriggio i funerali del ragazzo palestinese ucciso, con rischio di nuovi scontri e violenze. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete potete scriverci a effettogiorno@radio24.it, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il numero per scrivere gli sms, 349-238-6666. In apertura, la morte di Giorgio Faletti, in diretta Alessandra Tedesco. Alessandra. La carriera di Giorgio Faletti, scrittore, era iniziata nel 2002, quando aveva pubblicato con Baldini e Castoldi Io uccido. Io uccido è stato uno dei thriller italiani forse più venduti. Aveva venduto all'epoca più di 4 milioni di copie, un dato assolutamente straordinario. E questo, insomma, suscitò anche qualche polemica nel mondo dell'editoria, perché, insomma, si sa, proveniva Faletti da un altro ambiente, quello appunto del cabaret, quello della canzone, e quindi suscitò un po' di invidie. Altri suoi romanzi, sempre di grandissimo successo per il pubblico: Niente di vero tranne gli occhi, Fuori da un evidente destino, Io sono Dio, Appunti di un venditore di donne. Poi ultimamente era passato dalla Baldini a Castoldi a pubblicare con la Einaudi Tre atti e due tempi. E dicevamo che l'ingresso di Faletti nel mondo dell'editoria fu, insomma, un evento piuttosto notevole. All'epoca si fece sentire. E allora abbiamo chiesto di ricordare quel momento a Paolo Repetti, che è uno dei direttori editoriali di Einaudi Stile Libero, con il quale appunto Faletti aveva pubblicato il suo ultimo romanzo Tre atti e due tempi. È stato l'ingresso come quello di un'astronave in un parcheggio per autobus. Cioè, assolutamente, come dire, un qualcosa di inaspettato. E poi il fatto che avesse avuto questo successo assolutamente straordinario, il libro continuava a vendere, stare nei primi posti in classifica, e Giorgio Faletti era, come, conosciuto da moltissima gente per aver fatto Sanremo, da moltissimi ancora di più per Vito Catozzo, per Drive-In. E quindi l'idea che uno scrittore avesse impugnato con tanta autorevolezza la penna per scrivere non un'autobiografia o uno di quei libri, ma un vero romanzo nero, noir, dove si vedeva tra l'altro la grande capacità di Giorgio di prendere modelli americani che lui conosceva molto bene e di metterli in un clima, diciamo, più legato alla realtà nostra, insomma. C'è stato anche un momento in cui qualcuno ha ipotizzato che non fosse direttamente Faletti a scrivere i suoi romanzi, ma ci fosse una sorta di ghostwriter. Questo è quello che succede agli scrittori quando iniziano a essere molto, troppo popolari? Guarda, io non ho conosciuto mai nessuno più maniacalmente attento alla parola, come gli scrittori devono essere, d'altra parte, ma con qualcosa in più, proprio nel senso della scelta lessicale. Lui tra l'altro aveva una retorica particolare, poteva piacere, poteva non piacere, ma era la sua. Quindi questa storia del Gossel è una di quelle panzane che si buttano così nel mezzo della festa, diciamo. Grazie intanto ad Alessandra Tedesco per questo racconto del Faletti scrittore. E si diceva scrittore, ma come sentivate già e come ben sapete, non era solamente questo, è stato anche attore, cantante, tra l'altro ha persino guidato un'auto da rally in due gare ufficiali. Anna Rita D'Ambrosio, ciao, buongiorno. Ciao Simone, sì, Faletti è stato davvero tanto, musica, cinema, persino pittura, e quello che forse colpisce di più è che tutto quello che Faletti faceva lo faceva con un suo stile e, devo dire, con un grande successo. Laureato in giurisprudenza, ha iniziato la carriera come cabarettista, lo diceva anche Alessandra, nel locale milanese Derby, di fronte al quale c'è la sede del Sole 24 Ore. Forse è giusto ricordarlo, perché nell'intervista che io ho realizzato con Faletti quando scrisse Fuori da un evidente destino, che fu un libro poi anche suscitò tutta una serie di polemiche, lui venne qui ospite, parlammo tanto, e quando uscì si rese conto di com'era ridotto il Derby. Oggi è un centro sociale sociale e gli scese una lacrima e mi disse: il prossimo libro lo scriverò qui, ambientato qui, e fu Appunti di un venditore di donne, che è ambientato proprio in via Monterosa. E quindi è, secondo me, questo è il ricordo personale che io ho suo. E poi ovviamente ricordo quel Faletti della TV che ricordiamo tutti, quel Faletti nato con Drive-In, con Drive-In, il successo di Drive-In televisivo, perché il precedente è quello del derby che dicevamo, insieme a Diego Abbatantuono, Teo Teocoli, Massimo Boldi, e tutti lo ricordano soprattutto per Vito Catozzo. Che quando sono venuti i terroristi che hanno tirato la bomba a mano, sai che ho fatto? Porco immondo, che sono sotto i piedi, ho preso la bomba a mano, l'ho mangiata, porco immondo, sono andato fuori, ci ho fatto un rutto che ci ho incenerito la macchina a 150 metri. Tra l'altro Catozzo, Porco il mondo che c'ho sotto i piedi, è stato il primo libro che lui ha pubblicato, che è una serie di racconti proprio del personaggio di Vito Catozzo. Ma non c'era solo quello in Drive-In, c'era Carlino, c'era Suor Daliso, c'era il testimone di Bagnacavallo. Però è giusto anche dirlo, quella era una comicità già intelligente. Cioè dietro questi personaggi che facevano ridere, anche molto ridere, c'era comunque anche tutto un mondo che traspariva. Il Faletti scrittore è nato poi con la musica, perché scrivere canzoni è anche scrivere dei testi di un certo livello, e noi lo ricordiamo nel 1994, quando è stato al Festival di Sanremo, dove Faletti è stato più volte, ma lo ricordiamo nel 94 quando si classificò al secondo posto e vinse il premio della critica, un disco di platino, per una canzone francamente bellissima. Si chiama Signor Tenente ed è ispirata alle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Sentite un po' il testo. Minchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41, presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era. E abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a che passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età. È un testo bellissimo perché verso la parte finale incomincia a raccontare il coraggio della paura. Dice: noi lavoriamo per un milione al mese. È un testo di una profondità che suscitò un applauso dopo la sua interpretazione a Sanremo, un applauso veramente fragoroso, e tutti urlarono un bravo perché nessuno si aspettava una tale intensità. Ma Faletti era così, era intenso in tutto quello che faceva, perché non c'è solo la musica, ha scritto per Mina, ha scritto tanto per Fiordaliso, un intero CD. E poi è anche tanto cinema ed è addirittura pittura soprattutto negli ultimi anni, e ripeto, tutto quello che faceva lo faceva bene. Lui se n'è andato nella sua Torino, aveva un grande amore per gli Stati Uniti, e anzi, dopo aver scoperto di avere il tumore che se l'è portato via, era rientrato proprio da poche settimane da Los Angeles, era stato in un centro specializzato, poi però se n'è andato all'ospedale di Torino. Lui era nato ad Asti. E uno degli ultimi film, l'ultimo film di Faletti, è un film per la televisione del 2010, ambientato nella sua Torino, dove c'è anche l'impegno, diciamo, politico, e ambientato negli anni di piombo. Sentiamo. Io ti sento vicino quando parliamo. Una passione fortissima, un amore e un lavoro duro, è vero, ma che dà da vivere. Lo sciopero è l'unico strumento. Ma Gino, si può parlare solo di politica. In fondo tu non chiedi altro, Tonino. Nella vita è questione di fortuna. Il caso. Barone Antonio. Soltanto il caso. Ti hanno chiamato a partecipare a un processo. Ti chiederà di non essere più un uomo qualunque. A noi servono 6 uomini giusti perché Torino non venga travolta dalle Brigate Rosse. Giuseppe Fiorello, Giorgio Faletti. Il sorteggio prossimamente Rai 1. Io sono un operaio, non sono un eroe. Questo dunque l'ultimo impegno di Faletti, lo abbiamo detto, anche pittore, tu hai ricordato anche guidatore di rally. Grazie intanto alla nostra Narita D'Ambrosio per questo bellissimo racconto che ci ha fatto di Giorgio Faletti, e naturalmente nel corso della giornata su Radio 24 torneremo a parlarne, poi sul nostro sito vi racconteremo e vi faremo sentire molte delle interviste che ha realizzato con Radio 24 Giorgio Faletti. Dunque noi passiamo alle altre notizie di questa giornata, a partire da quello che è in corso in questi minuti, ossia la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi insieme al Presidente della Commissione Europea uscente, José Manuel Durão Barroso, il tutto con sullo sfondo, ma nemmeno troppo, le polemiche con la Germania. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così, primo impegno ufficiale per la presidenza italiana del semestre europeo, scenario quello di Villa Madama a Montemario, incontri questa mattina tra la Commissione europea uscente, il Presidente Barroso, i commissari europei e il governo Renzi al gran completo. Primo impegno ufficiale, dicevamo, accompagnato però dalle polemiche tra Roma e Berlino su rigore e flessibilità. Dopo il botta e risposta delle ultime 48 ore, sembra questo però il momento della distensione. Con la Germania non c'è crisi, si discute, ha detto il Ministro degli Esteri Mogherini, posizione ribadita anche dal ministro dell'economia Padoan. Ascoltiamo questo passaggio. Volevo sottolineare che non c'è assolutamente alcun problema con la Germania. Ieri abbiamo avuto una lunga e fruttuosa conversazione con Wolfgang Schäuble in preparazione dell'Ecofin che ci sarà, come sapete, all'inizio della settimana. Non ci sono alcune diversità di opinione. Italia e Germania vogliono entrambe che le istituzioni europee lavorino per gli interessi essenziali della gente, ha detto poco fa da Berlino il portavoce del governo tedesco. Ma torniamo alla conferenza stampa, dicevi Simone, tra Barroso e Renzi, dal premier italiano gli obiettivi del semestre, ascoltiamo quali. L'obiettivo è fare di questo semestre una grande occasione per restituire speranza, passione, entusiasmo ai cittadini europei. Loro sono i nostri stakeholders, loro sono i nostri punti di riferimento, loro sono il motivo per il quale quotidianamente lavoriamo. E anche il Presidente del Consiglio Renzi è intervenuto pochi istanti fa nel dibattito sul rigore. Non c'è nessuna polemica tra noi e il governo tedesco, stabilità e crescita sono i nostri riferimenti, ha spiegato il Premier. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e da Roma ci spostiamo a Bruxelles dove c'è il corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano. Buongiorno Beda e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Allora, con te vogliamo cercare di fare un punto e un'analisi politica della situazione, perché Jean-Claude Juncker in questo clima atteso tra Germania e Italia, nonostante naturalmente i ministri neghino, e in questo clima atteso tra i popolari europei, il Partito Socialista Europeo, Juncker giovedì prossimo sarà proprio davanti ai socialisti europei per cercare di raccontare quale sarà il suo programma per la Commissione. Io volevo capire da te, a tutti gli effetti, che armi hanno in mano i socialisti europei per far sì che Juncker inserisca elementi su questa famosa flessibilità all'interno del suo documento programmatico. Ma è evidente che Juncker dovrà rispondere al Parlamento molto più che al Consiglio nei prossimi 5 anni, perché la decisione dei principali partiti politici di fare campagna elettorale in maggio presentando dei capilista candidati alla Commissione ha trasformato un po' il sistema politico europeo, dando maggiore centralità al Parlamento. Allora, tenuto conto di questo, è evidente che i socialisti tenteranno così di imporre in un modo o nell'altro del programma del prossimo quinquennio qualche flessibilità in più del patto di stabilità. Dovranno però tenere conto e fare i conti con 2 aspetti. Il primo aspetto evidentemente è che dovranno trovare un compromesso con i popolari e i liberali, perché probabilmente anche i liberali daranno il loro appoggio a Juncker. Quindi c'è un primo compromesso da trovare in quell'ambito. E il secondo aspetto è un altro. I socialisti devono dare il loro appoggio a Juncker per un accordo che hanno siglato con i popolari qualche settimana fa e che prevede da un lato l'elezione di un socialista a capo del Parlamento e dall'altro l'elezione di un popolare a capo della Commissione. Quindi in un certo senso hanno veramente un po' di difficoltà i socialisti a tradire questa intesa e quindi alla fin fine dovranno dare il loro appoggio a Juncker. Un'ultima domanda che ti voglio fare in breve, Beda, è questa. Quanto di quello che abbiamo sentito da Weber all'interno del Parlamento europeo nella sua dichiarazione dopo il discorso di Renzi, ossia come dire, una certa rigidità, è condiviso dal resto del Partito Popolare Europeo? E penso in particolare ai popolari dei cosiddetti paesi periferici, tra i quali ci siamo anche noi, ma c'è anche la Spagna e c'è anche il Portogallo. Ma è probabile che non lo condividano completamente, però bisogna tener conto di due aspetti. Il primo aspetto è che il programma del Partito Popolare, che è stato pubblicato il 25 giugno, dice esplicitamente quello che Weber ha detto in Parlamento due giorni fa, né più né meno, ed è il programma dell'intero Partito Popolare Europeo, compreso il centrodestra italiano e il centrodestra francese. Il secondo aspetto a cui da tenere presente è che il Partito Popolare Europeo è tendenzialmente tedesco, perché né il centrodestra italiano né il centrodestra francese sono particolarmente forti, direi che sono tutte e due deboli. Quello francese è debolissimo, quello italiano è spaccato. Quindi ho l'impressione che bene o male dovremmo tener conto di quello che pensano i tedeschi all'interno del Partito Popolare Europeo. E grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, per questa analisi. Noi passiamo alla cronaca e passiamo a parlare dell'omicidio di ieri sulla Camilluccia a Roma. Ci sono degli aggiornamenti importanti, tanto sulle indagini quanto su un ritrovamento fatto dai carabinieri. 34 bustine di diamanti per un valore di alcuni milioni di euro, 284 mila dollari e 118 mila euro in contanti, più 5 orologi preziosi. È un piccolo tesoro quello ritrovato dai carabinieri in una villetta in provincia di Frosinone di proprietà di Silvio Fanella. Il cassiere del faccendiere Gennaro Mockbell, secondo gli investigatori, ieri sarebbe stato ucciso al termine di un tentativo di sequestro finito male. Non si sarebbe trattato quindi di un'esecuzione. Nell'appartamento dove l'uomo è stato ucciso è stata infatti trovata una sacca che conteneva fascette e cerotti, strumenti di norma usati per effettuare sequestri. Secondo gli inquirenti, l'intenzione degli assassini era quella di rapire Fanella e ottenere da lui informazioni sul tesoro in suo possesso, in parte scoperto oggi e frutto della truffa Fastweb Telecom Sparkle organizzata da Mockbell. Una conferma potrebbe arrivare dall'interrogatorio di Giovanni Ceniti, uno dei tre membri del comando, ferito ieri nella sparatoria che sarebbe scoppiata dopo la reazione di Fanella. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Giorgio Faletti è morto, era malato, aveva poco più di 60 anni, è stato attore, cantante e scrittore, tutti lavori di successo. Renzi dice non c'è nessuna polemica col governo tedesco, ma attacca la Bundesbank, non è suo compito partecipare alla politica italiana. I carabinieri trovano a Frosinone il tesoro di Fanella, l'uomo assassinato ieri a Roma in via della Camilluccia. Ci sono dollari e diamanti. Un nuovo problema al motore, l'esercito americano ferma tutti i caccia F-35. Si tratterebbe di una perdita d'olio che ha causato un incendio in uno dei velivoli. E sugli F-35 arriveremo tra poco, così come arriveremo a parlare di Medio Oriente per capire com'è la situazione in queste ore. Si sta aspettando una firma di un cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Nel frattempo io saluto Massimo Torti, che è segretario generale di Federazione Moda Italia, aderente a Confcommercio. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. E l'abbiamo chiamata perché domani partono i saldi, quindi con grande attesa degli italiani. Senta Torti, che cosa vi attendete? Guardi, noi siamo cautamente ottimisti, quindi ci attendiamo una leggera crescita della spesa media di ogni famiglia e quindi riteniamo che le famiglie italiane che acquisteranno in saldo spenderanno 237 euro, vale a dire una spesa media per ogni italiano che acquista in questo periodo di 101 euro a testa. Questo è il quadro complessivo, quindi come dire, le cose tutto sommato dovrebbero andare meglio dell'anno scorso, anche perché forse è piuttosto difficile fare peggio. Guardi, mi ha anticipato perché avrei detto esattamente le stesse cose, cioè l'anno scorso è stata una debacle, ma purtroppo è da anni che ci portiamo dietro il segno negativo. Quest'anno forse le stime ci dicono, ci fanno trapelare questa ventata di ottimismo, molto cauta perché stiamo parlando davvero di poco, però vuol dire che i saldi tengono e quindi questo lo dobbiamo sicuramente a due fattori. Il primo è un po' la fiducia personale che ci dicono essere in crescita, l'Istat stessa a giugno dice che la fiducia personale è in leggera crescita. Il secondo fattore è che gli 80 euro in busta paga che non sono stati spesi nel mese di giugno per il nostro settore l'abbigliamento ci lascia pensare che molti italiani abbiano preferito aspettare questi fatidici saldi per acquistare capi di abbigliamento. Vedremo dunque, vedremo che segnali arriveranno da questo punto di vista. Intanto ci sono i dati dell'Istat di questa mattina: nei primi tre mesi dell'anno la spesa delle famiglie per consumi in valori correnti è aumentata dello 0,2% nei confronti sia del trimestre precedente sia dello stesso periodo del 2013, anche se il potere di acquisto delle famiglie, ovvero il reddito reale, nel primo trimestre torna in calo, meno 0,1% rispetto al trimestre precedente e 0,2% su base annua. Una buona giornata Torti, e noi passiamo a parlare di Medio Oriente e della situazione mentre si attende il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Prima sentiamo il servizio realizzato dalla nostra Valeria De Rosa e poi andremo al commento con Ugo Tramballi. Le prossime ore potrebbero essere decisive, potrebbero registrare un cessate il fuoco che potrebbe cambiare qualche carta in tavola. Secondo la BBC, Israele e Hamas, attraverso la mediazione dell'intelligence egiziana, avrebbero trovato un accordo per posare le armi. Nessun altro dettaglio trapela al momento, se non che Israele sostiene che il primo passo deve venire da Gaza. Hamas risponde che è Tel Aviv a dover mettere fine ai raid aerei, ma questo rientra nel gioco delle parti. A Gerusalemme regna una calma forzata, centinaia di poliziotti sono dispiegati in posizioni strategiche nella parte est della città. Oggi è il primo venerdì di Ramadan. Oggi dovrebbero tenersi i funerali di Mohammed Abu Dahir. Ancora in forse perché la polizia israeliana sta trattenendo il corpo del giovane per gli esami autoptici e per prevenire nuovi scontri. Scontri che non sono mancati negli ultimi due giorni, da quando è stato ritrovato Mohammed in un parco, rapito e ucciso, forse per vendicare il rapimento e l'uccisione dei tre seminaristi ebrei. I parenti e gli amici di Mohammed lo stanno aspettando, seduti in silenzio sotto tendoni blu accanto a una bandiera palestinese. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, esperto di quelle zone naturalmente. Ugo, ti saluto, buongiorno. Buongiorno. Allora, vorrei capire da te se secondo te c'è una qualche possibilità che parta un'offensiva su larga scala di Israele o insomma... No, apparentemente no. Questo tentativo di cessate il fuoco dimostra che non sono solo Hamas, non ha intenzione di fare un'escalation perché appunto è in una gabbia, non ha più il retroterra egiziano dei fratelli musulmani, ma nemmeno Israele ha intenzione di farlo. Però naturalmente, come è stato dimostrato, Israele alla proposta di Hamas ha risposto al silenzio, noi risponderemo col silenzio, la calma risponderemo con la calma, nel senso che comunque dei razzi continuano a cadere su Israele perché Hamas non riesce a controllare tutte quelle varie piccole milizie sempre più islamiste, sempre più radicali, che invece dovrebbero continuare a fare la loro guerra. Questo è un aspetto del problema. L'altro aspetto del problema è il funerale del povero ragazzo palestinese, o quando accadrà oggi piuttosto che domani, un altro giorno, se ci saranno altri morti, qualsiasi cessate il fuoco gli israeliani e i palestinesi di Hamas faranno, salterà immediatamente perché si rinnescherà la violenza senza fine. Così fu per la seconda intifada alla fine del 2000. A ogni funerale c'erano dei morti, i morti provocavano altri funerali che provocavano altre manifestazioni e altri morti. Grazie a Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, per la sua analisi sempre puntuale. E adesso parliamo dei caccia F-35, al centro di tantissime polemiche, come sapete, in Italia. Ebbene, c'è stato un nuovo stop da parte del governo americano. Sentiamo. Il Pentagono dovrà verificare che cosa non funziona nel motore dell'F-35, una macchina da 160 milioni di dollari progettata per essere il caccia tecnologicamente più avanzato della storia americana, ma che finora sta collezionando una serie di problemi inaspettati. Lo stop di tutta la flotta americana arriva dopo l'incendio scoppiato il 23 giugno a bordo di un velivolo nella base di Eglin in Florida, a causa pare di una perdita d'olio al motore, ed è il secondo di questo tipo nell'ultimo anno e mezzo. Del programma F-35 fa parte anche l'Italia. In Piemonte è stata costruita una fabbrica per produrli che impiega circa 1000 persone e gli aerei sono destinati anche alle nostre forze armate, 60 per l'aeronautica e 30 per la marina militare. Ma ad oggi è stato sbloccato solo l'acquisto dei primi 6 velivoli e sono congelati tutti gli altri ordini fino a quando non sarà pubblicato il libro bianco della difesa. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo torneremo a parlare più tardi in effetto giorno e vedremo l'impatto della notizia naturalmente sull'Italia. Se stiamo cercando di raggiungere un deputato che se ne occupa, vedremo di parlarne più avanti. Intanto io saluto Luigi Brugnaro, che è presidente dell'Agenzia per il Lavoro Umana e presidente di Assolavoro. Brugnaro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. La chiamiamo come privato, come imprenditore, perché insomma era sua l'offerta per l'acquisto dell'isola con vista su Venezia, l'isola in laguna, di Poveglia. In realtà erano 2 offerte in tutto, entrambe a quanto pare troppo basse. Ci dice quanto ha offerto lei, Brugnaro? Diamo un'informazione un po' più completa, perché così non va bene. C'è stata una gara del Ministero per vendere l'isola di Poveglia, che è un'isola che è stata abbandonata da 30 anni, che non si fa niente. Ci sono vincoli delle sovrintendenze archeologica e ambientale, e se facciamo un discorso del genere sembra che spendiamo niente. Abbiamo fatto un'offerta in gara di 513.000 euro. Non è stato fatto nessun bilancio, ma nel testo della gara c'è l'obbligatorietà di fare lavori per più di 20 anni. Allora, Brugnaro, le dico questo: abbiamo un problema, credo che dipenda dal fatto, all'auricolare lei? Sì, ho l'auricolare. Se si toglie l'auricolare e prende la cornetta, siamo a posto e riusciamo a parlare serenamente. L'ha fatto? Benissimo, ci sembra meglio. Guardi, facciamo una cosa, dato che abbiamo dei problemi audio, la storia ci interessa perché sono in realtà dei 5 beni, della prima asta per i 5 beni ne è stato aggiudicato solamente uno. Lei ci stava dando i dettagli, tra i dettagli c'è il fatto che ci vogliono 20 milioni di euro di ristrutturazioni per quest'isola di Poveglia, quindi quei 510 mila euro sono una cifra falsa, per così dire. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Abbiamo recuperato con un audio decente, spero, Luigi Brugnaro, presidente dell'Agenzia per il Lavoro Umana e anche presidente di Assolavoro. Brugnaro, c'è? Ci sono, mi sento eccoci meglio. Qua, decisamente meglio, ottimo. Allora, ho fatto una linea non buona. Allora, parliamo dell'isola di Poveglia, per la quale lei ha fatto un'offerta. Diciamo che la notizia di base è che c'è stata questa prima asta di beni dello Stato, i beni di pregio dello Stato, e sostanzialmente lo Stato è riuscito a vendere solamente uno dei beni. Le altre 4 aste non sono andate a buon fine. Come si diceva, lei ha fatto la sua offerta per l'isola di Poveglia. È un'offerta che comprendeva i 500.000 euro, diciamo così, la faccio semplice, qualcosa di più, per l'acquisto del bene. E poi però c'erano dentro 20 milioni di euro di lavori da effettuare. Da 20, no? Esattamente, sì, è un obbligo, una prescrizione della gara, cioè non è bontà di chi fa l'investimento, la prescrizione della gara, lo dico perché penso che ci sia un pubblico anche attento a queste cose, nella gara, per quello non si è presentata tanta gente, è obbligatorio ristrutturare quei vincoli ambientali, paesaggistici e architettonici soprattutto, sono 3 sovrintendenze che ti obbligano a ristrutturare tutto quanto, e il costo io lo stimo tra i 20 e i 40 milioni di euro, per cui è evidente insomma che la cifra complessiva è questa, e questa prescrizione, questa obbligatorietà che chi si aggiudica l'asta deve prendersi, ovviamente e giustamente, fa sì che venga trascritta questo impegno sull'atto di concessione, perché non è una vendita ma è una concessione, e nel caso in cui questi lavori non fossero ultimati nell'arco di 10 anni dalla data dell'asta, ultimati, che non è facile a Venezia in 10 anni, tutto verrebbe requisito e ritornerebbe al demanio. Avete capito che la questione è un po' diversa rispetto alla fanfarone di quelli che dicono la presa con 500.000 euro? Cioè, sì, non no, a caso quello, la base d'asta è zero. Quello, non a caso. Quello è chiarissimo. Non ho capito, Brugnaro, perché le hanno rifiutato l'offerta? Appunto, perché secondo il mio punto di vista hanno ritenuto loro, cioè la commissione, ha ritenuto incongrua l'offerta. Non si capisce su che base, visto che la base d'asta è zero. Perché c'è da fare un sacco di lavori e spendere un sacco di soldi. Sono 30 anni che quest'isola è in mano ai topi, di fatto. C'è un parco archeologico, che chiaramente chi si impegna deve ripulirlo, deve rimetterlo in condizioni. E c'è ancora, ed è prescritto, l'uso pubblico dell'isola, è prescritto dalla gara. Noi abbiamo mandato il testo anche alla redazione vostra, mi auguro che l'avete visto. Per cui è tutto scritto, non è una cosa che... purtroppo siamo in presenza di, io dico, un populismo generalizzato ormai, che pensa che il pubblico debba far tutto. C'è chi è convinto che debba farlo il comune, che ha un buco, sembra rilevante, su cui in questo momento a Venezia lo avreste saputo, che dovrebbe farlo lo Stato o che lo faccia l'Europa, basta che lo faccia il pubblico. Cioè, io dico, guardate che se facciamo così con gli investimenti privati e non accettiamo invece che i privati possano intervenire, considerate tra l'altro che io ho proposto di fare un ospedale di fatto in quest'isola, è una clinica che io penso per le malattie, per i disturbi alimentari, ma che sono malattie psichiatriche. L'isola era un ospedale psichiatrico una volta, prima ancora era un'isola dove si fermavano i vascelli che arrivavano a Venezia, facevano le quarantene, per cui ha una propria origine sanitaria e verrebbe nel progetto che ho io in mente, sono 7 ettari di terra, perché sono 18 edifici completamente da ristrutturare con vincolo di 3 sovrintendenze. E poi ci sono da mettere a posto tutti, io avevo pensato di fare degli orti botanici, tutta una serie di agricoltura biologica, perché poi queste persone sono ragazzine dai 12 ai 25 anni, sono affette di bulimia, anoressia, e questo volevo farlo diventare un centro internazionale. Allora, il mio progetto. Allora l'ascoltatore Paolo che ci dice ok, ma poi il valore rimane a lui, e ti credo, se spende tra i 20 e i 40 milioni di euro per ristrutturazione ci mancherebbe che il valore non rimanesse a lui. Le voglio fare un'altra domanda, ha intenzione di fare ricorso contro il... E dovrei assumere più di 200 persone, lo diciamo così en passant, 200 persone, 200 dipendenti. Lasciamo, il ricorso l'abbiamo annunciato, faremo ricorso a questa decisione, ci sembra una cosa sbagliata, ma sarà il giudice poi amministrativo a decidere. Sicuramente noi non siamo anonimi e neanche speculatori. Per cui semplicemente noi abbiamo fatto la nostra offerta e siamo convinti, tra l'altro nessuno ha anche rilanciato, tanto vociare, tanto discussioni, sono interessati i grandi giornali internazionali perché i loro uffici immobiliari sono pronti per scatenarsi di nuovo in una seconda gara, probabilmente per fare il solito grande albergo, che noi a Venezia francamente ne facciamo a meno, siamo pieni di alberghi e vorremmo dare al senso a Venezia un senso invece diverso e una prospettiva diversa. Questo è il motivo vero per cui io ho partecipato a questa gara. Grazie Luigi Brugnaro, presidente dell'Agenzia per il Lavoro Umana e presidente di Asso Lavoro, qua appunto come imprenditore privato, per raccontarci questa storia, questa gara che non è andata bene per quanto riguarda l'isola di Poveglia. Restiamo sul mare, ma per parlare di immigrazione. Sono sbarcati all'alba a Reggio Calabria gli 834 immigrati soccorsi nella notte dalla nave San Giorgio, a bordo anche alcune minorenni e 4 donne incinte che saranno sistemate nei centri di accoglienza di Cosenza e Catanzaro. Gli immigrati, principalmente eritrei, siriani, iraniani e sudanesi, sarebbero partiti presumibilmente dalla Libia. Secondo il Ministero del Lavoro libico, sarebbero almeno 3 milioni le persone pronte a partire dal paese, mentre in Italia non si placa la polemica politica neppure dopo il vertice al Quirinale in cui il Presidente della Repubblica ha invitato a mettere da parte il gioco al rimpiattino sulle responsabilità. L'immigrazione ha raggiunto dimensioni epocali, dice Napolitano, dobbiamo metterci sulla stessa parte del tavolo per risolverlo. L'Italia, con Mare Nostrum, ha salvato migliaia di persone e non è sola, risponde il commissario europeo per gli affari interni Cecilia Malmström, ma il senatore PD Nicola Latorre, presidente della Commissione Difesa di Palazzo Madama, aggiunge, non possiamo permettere che la Libia diventi zona franca, l'ONU deve farsene carico. In gioco c'è poi la sopravvivenza di Mare Nostrum, l'operazione umanitaria che pattuglia il Mediterraneo, intercetta gommoni e barche fino a portare i migranti nei porti italiani. Se il governo inserirà il finanziamento di Mare Nostrum nel decreto di proroga delle missioni militari all'estero, saremo intransigenti arrivando al blocco dei lavori parlamentari, dice il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Marco Alberto Iacono, comandante della Guardia Costiera di Viareggio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Guardia costiera, che di solito interpelliamo proprio per questioni, per parlare di migrazione e di arrivi, e che in realtà con lei vogliamo parlare di altro. È successo che i suoi uomini sono stati impegnati in un'operazione, per così dire, di sgombero di ambulanti sulla spiaggia di Motrone, a Marina di Pietrasanta, provincia di Lucca, e ci sono queste immagini che stanno circolando su internet dei suoi uomini che fanno uso di manganelli. Ci sono denunce, proteste dei bagnanti e così via. Che cosa ci può dire? Allora, in relazione a quel video che si percepisce chiaramente, non c'è uso di manganelli, c'è soltanto lo sfollagente che viene portato al seguito, tant'è che non abbiamo alcuna notizia o alcuna denuncia o alcuna segnalazione, e tantomeno posso effettivamente dichiarare che nessuno dei militari ha usato il manganello, appunto, per responsabile delle polemiche contro chi che sia. Quindi di fatto è soltanto uno strumento che viene portato al seguito su disposizioni del comandante in occasione di operazioni particolari per quanto riguarda il controllo della fascia demaniale e di tutti quei reati che possono insistere nell'ambito, appunto, della fascia demaniale. Consideriamo che il come bene ha inquadrato lei, il territorio versiliese è interessato, tutta la Versilia, da una presenza di circa 450 stabilimenti balneari, e proprio durante il periodo estivo questi stabilimenti balneari trovano ovviamente durante il fine settimana l'afflusso maggiore. Quindi noi abbiamo stimato una presenza di circa, durante il fine settimana, di 200.000 unità che frequentano, appunto, le coste versiliesi. E su questo, appunto, su questo dato, ecco, la Capitaneria è impegnata in più fronti, quindi segnalazione di bambini dispersi, persone scomparse, che, come ha sottolineato lei, anche nell'ausilio dell'operazione Mare Nostrum, è il nostro compito principale, il focus della nostra attività, la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione. Però in spiaggia può accadere di tutto, dunque in spiaggia c'è occupazione abusiva. E quindi, in sostanza, quello che ci sta dicendo lei è che i manganelli li devono portare dietro per forza, perché non è che ci sono solo gli ambulanti, no, ma ci possono essere problemi di altro tipo, o no? No, il discorso è che in spiaggia si possono trovare problemi di altro tipo, ed è sicuramente una valutazione ponderata da parte del comando di far andare. Noi notoriamente, appunto, come lei sa, svolgiamo le operazioni in completa assenza di arma individuale, quindi il nostro personale è normalmente in divisa bianca con i segni distintivi proprio per farsi riconoscere, ma senza portare armi lunghe o armi corte al seguito. Ecco dunque che, trattandosi in spiaggia, lì dove si possa avere una necessità di un'autodifesa di questi militari, così come del resto è avvenuto, perché una presenza di 200.000 persone durante un fine settimana implica sicuramente la presenza di anche soggetti in effetti poco raccomandabili, così come li abbiamo avuti. Ecco dunque che veniamo interessati in occasioni di abusiva occupazione di aree demaniali, per ogni genere di attività, reparti notturni, bivacchi, feste improvvisate durante il litorale, che ovviamente spesso ci trovano di fronte delle persone quasi sempre accondiscendenti, ma troviamo qualche volta personaggi che in effetti possono pure creare qualche difficoltà. Dice bisogna essere pronti in quel caso. Nel pieno rispetto, perché quello che ci chiedono i cittadini è nel pieno rispetto della legalità da parte di tutti, a prescindere del comunitario, dell'extracomunitario, quello che esso sia. E quindi, ecco, bisogna essere pronti, perché ovviamente in determinate situazioni si possono creare dei problemi. Allora, la ringrazio, perché mi sembra che sia stato esaustivo. Marco Alberto Iacono, comandante della Guardia Costiera di Viareggio. Il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Oggi 4 di luglio, festa dell'indipendenza, bene sul fronte interno, male su quello